Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi la puntata di questa trasmissione del gastronauta sarà dedicata a questa, diciamo, non direi campagna, ma direi questa osservazione molto fatta con molta forza del sindaco di Noci, Piero Liuzzi, che ha così, per così dire, accusato le guide gastronomiche e di conseguenza il giornalismo enogastronomico italiano di snobbare e di non tenere in grande considerazione la cucina del sud e in particolare i ristoranti del sud. Ebbene, credo che sia così un'accusa abbastanza importante da approfondire e da verificare se ci sono ragioni su questo fatto che le guide, diciamo, hanno un numero di ristoranti inferiori del sud rispetto al nord e di stellati. Andremo ad approfondirlo con molti responsabili di guide, ma soprattutto con, diciamo, chi ha lanciato questa accusa un po' alla stampa enogastronomica. E devo dire che io prenderò subito posizione dall'inizio, sostengo che non sia così, poi anch'io dirò la mia, ma comunque così chiedo anche ai radioascoltatori che ci seguono e soprattutto ai radioascoltatori del Sud di intervenire su questo dibattito e farci sapere anche la loro opinione. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Buongiorno a Piero Liuzzi. Buongiorno dottore, sono Piero Liuzzi. Buongiorno. Allora, ci dice qual è così, diciamo, la sua posizione su questo. Io le voglio ricordare solo una cosa molto, molto divertente, che da quando io curo la mia guida dei ristoranti del Sole 24 Ore c'è sempre stato un locale del suo paese che io ho visitato. Quindi, come vede, c'è anche attenzione su Noci. Però a lei la parola. Certo, la ringrazio dell'attenzione, ma in generale dell'attenzione che la sua seguitissima trasmissione dedica all'argomento. E apprezzo anche il taglio non di natura polemico che appunto vuole dare a questo intervento. Però ecco, tengo a precisare che in pieno centenario, in piena celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, noi ci scopriamo disuniti dal punto di vista gastronomico. È una realtà. Basta appunto sfogliare le guide, le più accreditate, quelle che forse vendono di più in libreria, per verificare questa mia asserzione, ovvero per esempio la guida Michelin su 280 locali stellati, appena 4 sono pugliesi, appena 20 sono presenti da Napoli in giù, e questa è una realtà indiscutibile. Per questa ragione ho preso carta e penna e ho voluto quantomeno sollevare il problema. Poi capiamo se tutte le responsabilità sono in capo alle guide o se eventualmente ci sono delle responsabilità che riguardano anche la categoria ed in particolare il sistema turistico ricettivo del Meridione. Bene, lei rimanga con noi, sindaco, perché la terremo per quasi tutta la trasmissione, nel senso che faremo intervenire le varie persone. Fausto Arrighi, a te, hai sentito cosa ha detto Piero Liuzzi anche della guida Michelin? Sì, buongiorno a tutti. Ma il Sud ha delle problematiche ben diverse da altre zone del nord Italia. Abbiamo comunque un Sud che si sta muovendo, come hai detto tu precedentemente, l'area napoletana, ma anche la Sicilia si muove bene, ci sono realtà, si sente che c'è qualcosa che si muove. Regioni come la Calabria è un deserto, la Basilicata anche, la Puglia è statica, non ci sono realtà nuove che emergono con chef che creano anche eventualmente una scuola di pensiero, in regioni dove la cucina di base è straordinaria. Ecco, questa è una problematica che esiste, e noi che siamo giudici osservatori la notiamo, più di tanto noi non possiamo fare, giudichiamo. Nel caso ad esempio della mia guida, noi abbiamo dei problemi annualmente con i ristoranti segnalati che non collaborano, ben che siano già stati selezionati, segnalati sulla guida, non ti rimandano il questionario dove chiediamo l'aggiornamento dei dati, delle chiusure. Cioè, il Sud ha effettivamente questa problematica che ama spesso piangersi addosso, ma quando c'è chi l'aiuta, come le guide, come la stampa enogastronomica, poi più di tanto non fa. Bene, Luzzi, ha sentito cosa ha detto Arrighi? Posso replicare? Certo, vero? Certo. Sicuramente ci sono questioni che riguardano la scarsa inclinazione della ristorazione del mezzogiorno a avere una parte diligente in un processo di valorizzazione. E qui concordo sicuramente con il mio interlocutore. Però temo che la distanza del meridione, in particolare della Puglia, della Calabria e della Basilicata, dai centri da cui ha fonte l'informazione, chiaramente l'informazione tematica, ovvero Milano, la Lombardia, ecco, dai cosiddetti think tank dell'editoria, probabilmente penalizza il nostro sistema ricettivo, il nostro sistema della ristorazione. E perché è molto più facile, per gli ispettori muoversi da Milano e andare in provincia, quindi a Mantova, dove appunto sappiamo che ci sono dei ristoranti a 3 stelle, che non compiere quasi 1000 chilometri di distanza e quindi soffermarsi. Beh, anche alla ricerca di quelle peculiarità che poi riguardano appunto la nostra grandezza in termini di tradizione e in termini di qualità della nostra cucina. Liuzzi, mi permetta, io ho sotto mano qui 2 guide. La Puglia è servita, la Basilicata è servita, che sono edite in Puglia proprio da pugliesi, e devo dire che il numero dei ristoranti è veramente molto, ma molto scarso. Certo, quindi certo. Io credo che un problema non sia delle guide nazionali, io credo che sia veramente un problema del territorio. Ma voglio sentire dei radioascoltatori prima o poi di sentire la responsabile della guida del Gambero Rosso. Massimo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Seguo con molta attenzione la trasmissione, anche perché sono un appassionato lettore delle guide. Sono d'accordo con entrambi le persone che parlavano delle guide in generale e della presenza dei ristoranti nelle guide. Io però vorrei anche fare una critica agli editori delle guide, perché molto spesso io noto che dei ristoranti in determinate città che io conosco sono inseriti dei ristoranti che non dovrebbero essere inseriti, mentre vengono tralasciati altri ristoranti che meriterebbero di essere segnalati con dei giudizi positivi. Ecco, secondo me i responsabili delle guide dovrebbero fare molto più attenzione su quelli che sono i ristoranti da inserire. Bene, grazie a Massimo da Roma. Clara Barra, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, voi del Gambero, vi muovete così poco, non riuscite a fare tanti chilometri, come dice Piero Liuzzi, il sindaco di Noci? Ma insomma, diciamo che noi probabilmente, stando in centro, forse siamo più agevolati, e anzi, insomma, ci permettiamo di dire che per noi la Puglia ci sta molto nel cuore, nel senso che abbiamo segnalato moltissimi ristoranti ad altissimi livelli, per esempio, tra le altre cose, sui nostri 16 tre gamberi che sono selezionati fra circa 2000 ristoranti, ben 2 sono in Puglia. Tra l'altro molti ristoranti di alto livello, va detto, in Puglia sono in mano a cuoche donne, cosa che per me, che sono responsabile di una guida, mi fa molto molto piacere. L'anno scorso addirittura abbiamo attribuito un premio particolare a una di queste chef giovani emergenti, quindi ecco, Sinceramente non mi sembra che, per quello che riguarda noi, sottovalutiamo il sud. Vabbè, la Campania, come si sa ormai da qualche anno, è un discorso a parte. Certo. Ma ad ogni modo anche la Sicilia per noi è un bellissimo fiore all'occhiello, ma comunque anche la Puglia. Certamente le espressioni creative forse sono in minor numero a fronte però di una cucina magari più dedita al prodotto e alla tradizione, ma noi abbiamo appunto sicuramente delle grandi eccellenze segnalate sulla nostra guida per quello che riguarda la regione Puglia, ecco, quindi non ci sentiamo di approvare questa affermazione, insomma di condividere questa affermazione sinceramente. Bene, grazie, ecco. A Clara Barra, ora sentiamo un radioascoltatore, Riccardo da Bari appunto. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Bene. Io viaggio spesso per lavoro, sono barese, vado spesso al nord e utilizzo spesso le guide. Devo dire che sono abbastanza d'accordo su quello che ha riferito la giornalista del Gambero Rosso. In effetti sulle eccellenze le guide sono affidabili, cioè il ristorante stellato non lo sbagli né in Puglia né in Lombardia. Io quello che noto, e secondo me questo è il motivo della differenza numerica tra il sud e il nord, è sul livello medio, medio-alto. Quando tu vai in una città per lavoro, non vai al ristorante stellato, anche perché magari devi prenotare per tempo. Vai da un ristorante che ti aspetti medio buono e devo dire che io ho trovato delle delusioni al nord sulle guide e conosco posti al sud molto migliori che non sono neanche menzionati. Ecco, bene, grazie, grazie a Riccardo da Bari. Fausto Righi, i vostri ispettori si muovono o non si muovono da Milano verso il sud? Ma guarda, ieri ho firmato gli itinerari dei miei ispettori per le prossime settimane, ne ho uno che sta partendo per la Calabria e ne ho un altro che sta partendo per la Puglia, quindi non è detto, non hanno limitazioni, vanno alla ricerca di ristoranti nuovi da inserire e vanno alla conferma dei ristoranti che sono già segnalati, che ovviamente proviamo per che si mantengano a buoni livelli nel nostro standard, quindi sotto questo aspetto non abbiamo assolutamente delle limitazioni, anche se i nostri ispettori per la gran parte abitano al nord, gli diamo la possibilità di muoversi con qualsiasi mezzo. Cioè, bene. Grazie. Tu prenderà l'aereo e farà tutta la settimana in una provincia, per dire, ecco, questo non ci sono problemi da parte nostra da questo punto di vista. Grazie Fausto, sentiamo Gianni Da Lucca, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Dunque, io vedo e mangio in 10-12 ristoranti al mese e compro la guida Michelin, anche se la trovo un po' statica come nomi. Ultimamente mi affido molto alle guide su internet fatte direttamente dai visitatori dei ristoranti, tipo Due Spaghi o il Mangione, che opportunamente filtrate danno comunque degli spunti interessanti. Cosa vuol dire opportunamente filtrate? Mi scusi. Sì, perché a volte si leggono dei giudizi che si capisce bene che la persona che ha visitato il ristorante non ha delle grosse competenze. Quindi lei si affida a questi signori? No, non mi affido a questi, li filtro opportunamente. Ci sono poi anche dei giudizi decisamente ben fatti e validi. Devo dire che io comunque ho avuto delle buone esperienze. Bene. Su ristoranti reperiti su queste liste. Grazie. Sentiamo Davide da Verbania. Buongiorno Davide. Pronto, buongiorno. Mi dica. Senta, ma a me sembra che una questione importante possa essere il fatto che vengono definiti dei criteri all'inizio, quando vengono fatte queste guide. Per cui è necessario adeguarsi a questi criteri. E nel momento in cui manca la propensione ad adeguarsi a questi criteri, chiaramente la cosa decade. se ci sono delle abitudini al sud che sono diverse dai criteri definiti, chiaramente si rimane esclusi. Bene, grazie a Davide da Verbania. Bene, abbiamo moltissimi sms di commento sulle guide. C'è chi trova affidabili alcune guide, chi ne trova affidabili altre, chi addirittura non ne trova affidabili nessuna. Chi dice che mancano alle guide indicazioni sui locali dei celiaci, sì, sono talmente pochi, esiste un'associazione comunque a cui rivolgersi. C'è addirittura anche un assessore della Lega Nord in un piccolo comune del Veronese che è appassionato di cucina, ma dice: io apprezzo la cucina del sud. Benissimo, abbiamo con noi Alfonso Iaccarino. Alfonso Iaccarino, diciamo, lo status symbol della cucina del sud, e io chiedo a lui, che è autore di un libro appena uscito, La cucina del cuore, chiedo a Alfonso Iaccarino se ritiene che le guide discriminino i ristoranti del sud, lui che, diciamo, è da anni sulla breccia. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. La situazione è abbastanza complessa e complicata. Io direi che in linea di massima c'è un'etica e una professionalità da parte di tutti il giornalismo di gastronomia. Però sai, a volte può essere un po' complicato, difficile, se un valdostano deve giudicare un siciliano o un siciliano deve giudicare un friulano. A volte, sai, subentrano quelle tradizioni di base, quella cultura che abbiamo dentro, che a volte ci può portare anche a commettere dei piccoli errori, ma questo è umano. Io credo che la cucina sia fratellanza, io mi sento italiano a tutti gli effetti, escluso qualche piccolo episodio che abbiamo avuto delle difficoltà con una guida, il resto li riteniamo all'altezza dei tempi e si impegnano al massimo, pur sapendo che è un lavoro difficilissimo e complicato e non è facile. Quando si giudica è sempre difficile, anche io a volte giudicare i miei colleghi mi è complicato, però poi alla fine bisogna andare in fondo, studiare tante piccole cose. La cosa più importante che io ritengo è che intorno alla gastronomia, alla ristorazione, c'è stato un movimento importantissimo, questo grazie a voi che avete sviluppato questo settore in una maniera favolosa, perché se pensiamo cosa eravamo 20 anni fa, sud o nord compreso, i passi avanti sono stati fatti tantissimi, per cui bisogna lavorare con serietà, con impegno, con etica, direi, con moralità. Certamente se poi subentrano degli interessi particolari in qualcuno, oh mio Dio, sa, queste è cose della vita e di tutti i settori della vita. Bene, grazie Alfonso, sei sempre molto chiaro, molto preciso e parli sempre con il cuore, come questo tuo ultimo libro. Bene, continuiamo col nostro viaggio con alcuni ospiti. E allora io ho in linea un giornalista siciliano molto bravo, al quale è Nino Aiello. Buongiorno Nino. Davide, come va? Buongiorno, mi senti? Perché ti sento male. Ci sentiamo? Pronto? Pronto Nino? Bene. Mi sembra che non ci si senta, è caduta la linea. Bene, allora passiamo a un giornalista nordista, anzi c'è del centro Italia. Passiamo a Carlo Cambi. Carlo Cambi, buongiorno Carlo, no, che anche Davide, lui è autore di una guida. Carlo, allora, è veramente che viene discriminato il sud dal punto di vista gastronomico? Ma insomma, io non sono assolutamente d'accordo su questo. Mi pare che il sindaco abbia, come dire, usato dei toni che non corrispondono alla realtà. Una cosa è vera: finché la critica gastronomica si appunta sui cuochi d'artificio, è ovvio che il sud viene penalizzato, perché lì non ci sono grandi cuochi che spettacolarizzano. Ma se poi si va a vedere quello che normalmente la gente mangia al ristorante, allora la cucina del meridione, se fosse fatta come Dio comanda, quindi privilegiando gli straordinari ingredienti che il nostro meridione ha, è una cucina assolutamente godibile e di alto livello. Mi viene in mente che probabilmente le guide di un tempo sono le guide del culto metropolitano, del pubblico metropolitano, e quindi probabilmente quella ristorazione un po' ruspante del sud, ma assolutamente considerevole dal punto di vista della qualità gastronomica, è stata, diciamo, messa in non cale. Ma è un fenomeno che non riguarda solo il sud, riguarda più o meno tutta Italia. Insomma, d'altra parte queste guide hanno anche un po' stancato, se pensi che i punteggi sono, come dire, una una sorta di escamotage per vendere delle copie, ma che in realtà non riflettono minimamente quello che è il gusto medio del consumatore. Mi sembra più una sparata propagandistica di questo sindaco che non una fotografia della realtà. Sindaco Liuzzi, vuole replicare? Io in premessa ho detto che sicuramente la polemica ha la necessità di mantenere i toni bassi, non si tratta di secessione del sud rispetto al nord, sebbene i dati e i numeri confermino che una forte disparità in tal senso c'è, esiste, semmai dobbiamo comprendere le cause. Le cause, io ho anche detto, probabilmente dipende dalla distanza geografica dai centri della comunicazione che conta e dell'editoria che conta. E una parte sono disponibile, ma qui penso che l'intero Sud e la classe dirigente del Sud è in grado di prendersi le proprie responsabilità. Per cui sarebbe anche utile capire se rispetto ai punteggi, rispetto alle stelle, rispetto ai bicchieri, alle forchette, possa esistere anche una possibilità per la ristorazione del Sud di compiere un salto in grado appunto di migliorare. E qui forse le guide potrebbero anche aiutarci, in che senso? Qualcuno tuoi ospiti, caro Davide, ha anche affermato che i ristoratori spesso si lamentano della mancanza di requisiti, di conoscere loro quali potrebbero essere anche da questo punto di vista gli aiuti a far migliorare la cucina della regione. E qui probabilmente, ecco, non si tratta sicuramente solo ed esclusivamente di stilare un vademecum tipo il locale pulito, l'igiene, la giacca del cameriere che sia sempre attillata e mai macchiata. Io ritengo che da questo punto di vista mettere in risalto il forte radicamento della ristorazione del Sud con il territorio, appunto il terroir, in termini di ingredienti, di materie prime che appunto affondano nella nostra tradizione, potrebbe essere, diciamo, un punto di vantaggio per quanto ci riguarda. Grazie Liuzzi, rimanga ancora con noi. Sentiamo radioascoltatore Domenico da Milano. Buongiorno Domenico. Buongiorno, due cose veloci se riesco. Vabbè, la prima sul sud, io sono parzialmente d'accordo, nel senso che comunque sono appassionato di gastronomia, sono sommelier e girando per vacanze all'Italia devo dire che con delle guide, non necessariamente, non dimentichiamoci che non ci sono solo le guide di riferimento del Gambero Rosso, le Michelin eccetera eccetera, ci sono Stelle d'Italia, c'è la guida golosa del Club del Papillon. Io devo dire che per esempio l'estate scorsa a Ragusa mi sono trovato molto bene con le guide, come in Sardegna 2 anni fa. Quello che voglio sostenere io è che è molto semplice saper far da mangiare bene e far pagare alla gente 120, 130, 80, 90, 140 euro. Ma io direi che ci sono ristoranti su queste guide qua che ho citato da 30, 40, 50 euro dove si mangia molto bene, e anche a sud per la mia esperienza. Ora la Puglia sinceramente mi manca e quindi non saprei cosa dire. Bene, grazie Domenico da Milano. Io volevo un po', come posso, smentire una cosa che ha detto il sindaco Liuzzi e con una persona appunto che ora abbiamo ripreso, che è Nino Aiello. Liuzzi sostiene che le guide hanno centri, diciamo, di direzione lontani da, appunto, dal sud o da altro. Bene, Nino Aiello è un giornalista, dicevo, siciliano che da anni si occupa della guida dell'Espresso. Vive a Palermo, quindi non è che ha bisogno di fare migliaia di chilometri per tenere sotto controllo la Sicilia. Nino, ma veramente è discriminata la tua regione e le regioni del sud dalle guide? Sono discriminate? Io anche prendo la persona del sindaco come una piacevole provocazione. Noi la guida dell'Espresso la facciamo in 4, 2 siamo nella Sicilia occidentale e 2 settori nella Sicilia orientale, quindi abbiamo tutto il territorio sotto controllo. Io ho pure casa a Ragusa, quindi mi muovo fra Palermo e Ragusa con grande facilità. Che valga per molte altre guide, cioè i responsabili locali e gli ispettori locali fanno la cernita del territorio e consultando anche country, secondo me c'è una buona evidenziazione di quelle che sono le potenzialità locali. Poi noi dobbiamo fare anche un altro discorso, è chiaro che aree economicamente più importanti dove ci sono soldi sono quelle che escono meglio, perché in realtà ci sono gli utenti che sono disponibili a pagare per i grandi ristoranti, però non vorrei che fosse solo un discorso dei grandi ristoranti. Purtroppo Nino, la tua... Pronto? Sì, continua a parlare, cioè, ti sentiamo sprazzi, vai. Voglio dire... Niente, purtroppo dobbiamo chiudere il collegamento. Grazie Nino, e stavi dicendo cose interessanti, però è caduta. Sentiamo Enrico da Roma, radioascoltatore. Pronto? Sì, buongiorno Enrico. Buongiorno, io ho chiamato, stavo sentendo la vostra trasmissione, ho chiamato perché volevo segnalare un caso di un giornale che è stato... che è uscito in edicola negli anni 2003, 4, 5, che io leggevo abitualmente e con cui mi sono trovato benissimo. Questo giornale segnalava, dava degli itinerari enogastronomici associati a visite culturali di alcune città e parlava sia del sud che del nord che anche dell'estero, e io ho fatto vari viaggi seguendo i consigli di questo giornale trovandomi sempre benissimo. E trovavo sia coincidenza sia con i piatti, diciamo, proposti, sia con i prezzi, cosa questa importantissima per una persona che sa a che cosa va incontro. Cioè, quando si diceva che si spendeva 30 euro a testa, si spendeva 30 euro. Si spendeva 30 euro, in effetti. Bene. E questa è stata un'esperienza molto bella. Poi, purtroppo, questo giornale ha cambiato veste editoriale e ha cominciato a proporre non più, per dire, gli sfilacci di cavallo a Verona, ma il buon ristorante in Vietnam. Che a me che posso andare in Vietnam a mangiare bene a 150 euro a testa, francamente interessa molto poco. Questo giornale è uscito ancora per poco, non so se posso dire il nome. Sì, certo, può dire il nome benissimo. Si chiamava Viaggi e Sapori. Bene. Poi dopo un po' non è più uscito, e questo francamente mi dispiace molto. Io conservo tutti i numeri di questo giornale. Bene, grazie Enrico, abbiamo capito cosa vuole a volte, cioè un viaggiatore. 30 secondi ancora per Carlo Cambi. Carlo, hai risentito alcuni interventi, hai qualche altra... Ho sentito, e lasciami dire, io sai che non faccio quasi mai propaganda alle mie cose, ma io per esempio col mio Mangiarozzo, dove mi occupo di ristoranti e trattorie sotto i 30 euro e i 40 euro, sono pieno di ristoranti del sud. Il problema è che cosa vuoi dalla guida. Se dalla guida vuoi l'incensamento, evidentemente la gastronomia del sud ha qualche problema dal punto di vista dell'altissima gastronomia. Se invece vuoi che le guide servano a consigliare il turista a frequentare dei luoghi, secondo me in libreria c'è ma sul web c'è un'offerta così doviziosa di informazioni che proprio sta penalizzazione non mi risulta. Bene, grazie a Carlo Cambi. E una delle accuse di Liuzzi sostiene che probabilmente il sud, in particolare la sua regione, la Puglia, ma anche altre regioni, sono lontani dai centri dove sono gli editori, dove vengono pubblicate queste guide. Allora io stavo parlando anche poco fa con Nino Aiello, che purtroppo è caduta la linea ed è uno dei responsabili per la Sicilia della guida dell'Espresso. E allora io, siccome ho con noi il direttore della guida dell'Espresso, vorrei chiedere quante persone ha al sud del sud che si occupano della sua guida. Buongiorno a Ezio Vizzari. Buongiorno a tutti. Buongiorno Davide. Io chiedo scusa, ho solo sentito a sprazzi anch'io la trasmissione fino adesso, sì. Però ho sentito la tua ultima domanda. Lasciami dire, io ho proprio scritto un pezzo che uscirà nella mia pagina sull'Espresso fra un paio di settimane, prendendo lo spunto da questa, uso toni forti, questa sparata piagnona e demagogica, sottolineo demagogica, del sindaco di Noci, per dire proprio che sarebbe bene parlare informandosi prima. Quando sento dire, appunto, tu lo ricordavi, che una delle accuse alle guide, poi io parlo della mia, delle altre, ci sono autorevoli rappresentanti che lo fanno, la disattenzione è dovuta al fatto che la Puglia è lontana o la Sicilia è lontana, beh, allora informiamoci prima. La segnalazione e le schede relative alla stragrande maggioranza dei locali di una regione è fatta, per quanto riguarda la guida dell'Espresso da autori locali. Tu dici che prima appunto stava dicendolo Nino Aiello, posso confermarlo, ma questo vale per la Sicilia, come vale per la Puglia naturalmente, come vale per la Campania e come vale per le altre regioni del sud. Sinceramente proprio io non riesco a capire questi atteggiamenti piagnoni di captatio benevolenze, di ricerca del consenso facile sul proprio territorio. Le guide registrano quello che c'è. E allora bisogna dire che nel caso della Puglia c'è una straordinaria realtà di qualità dei prodotti, di cucina popolare, di cucina nelle famiglie. Non è altrettanto straordinaria la qualità della professionalità di chi opera in questo settore. E le guide, la mia guida, registra questo fatto, che poi basti spostarsi di pochi chilometri, perché la Campania è molto vicina, la Sicilia è poco più lontana, ma è vicina alla Puglia, per rendersi conto di quanto sia sciocco, scusatemi, uso questo termine, dire che il Sud è discriminato. Ebbene, allora queste cose bisogna dirle chiare, parliamoci serenamente, ma signor Sindaco, per cortesia, prima di parlare, informiamoci. Ecco, allora, Liuzzi, ha sentito? Ho sentito. Immediatamente io rigetto al mittente questa asserzione del Sud piagnone, in particolare se rivolto alla mia persona, di chi appunto è alla ricerca del facile consenso. Io sto parlando del Meridione, non sto parlando della mia città, di cui appunto sono orgogliosamente sindaco. Per cui il problema l'ho posto come un fatto di sistema e quindi anche nella considerazione che qualche problema noi ce l'abbiamo e nessuno ha detto che è soltanto un problema di orgoglio, così avversato, di un orgoglio che appunto è stato colpito dalle guide appunto le più accreditate, le più diffuse. Ritengo invece che io abbia messo così allo scoperto qualche sinapsi dell'intero sistema dell'editoria che conta, dell'editoria appunto e del giornalismo delle guide. Tant'è vero che qualcuno, in particolare l'interlocutore, l'ultimo, appunto il dottor Vizzari sta appunto così reagendo in una maniera francamente scomposta. Non ho assolutamente voglia di passare per chi sta facendo appunto facile protagonismo, quando invece ritengo che il problema esiste, ci sono 260 ristoranti nel centro-nord segnalati dalla guida Michelin e appena 20 da Napoli in giù. Questo è un dato. Poi sarà tutta colpa nostra? Io ritengo che non è possibile bollarci per essere appunto la parte più infima appunto della storia enogastronomica del nostro paese. Ritengo invece che qualche problema è sicuramente addebitabile alla nostra capacità di fare il sistema, di valorizzarci in maniera autonoma, ma una buona parte risiede nel chi appunto coglie poco questa nostra capacità. Grazie al sindaco di Noci, Piero Liuzzi. Io voglio anch'io così prendere posizione su una serie di sms che sono arrivati sulle guide pagate, le guide, e quindi molte offese sulle guide, e sono fatte ovviamente anonime, senza nomi e cognomi e senza portare prove. Ecco, io credo che questo sia un cannibalismo un po' fuori misura. L'ho detto perché non vorrei che poi si dicesse che si leggono solamente degli sms favorevoli. Bene, io però volevo un'ultima cosa, la persona, che la giornalista che si occupa della guida dei ristoranti del Sole 24 Ore della Puglia, ed è pugliese ed è di Bari. Buongiorno Antonella Millarte. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Io vorrei sapere da te, siccome tu ti occupi di tutta la Puglia, vorrei chiedere se ti senti come pugliese, senti discriminata dal punto di vista gastronomico. Ma assolutamente no, come Sole 24 Ore, perché nei 3 anni che ho avuto la possibilità di lavorare con te siamo passati da 22 a quasi 60 locali. Non mi hai mai posto alcun limite, anzi hai accolto tutte le proposte, però ben argomentate, motivate. Vorrei però anche aggiungere un passaggio che è emerso molto chiaramente da numerosi interventi. Credo che sia importante l'antenna sul territorio. Io sono nella fascia dei quarantenni, forse della nuova generazione. le due generazioni precedenti erano quelle di guide fatte da chi viveva a Milano, Torino, e chiaramente non so come possa ben giudicare delle cozze. Io umilmente dico di non credo di essere in grado di giudicare una bagna cauda, ne ho assaggiate magari tre nella mia vita. Poi c'è stato un secondo passaggio, quello anche delle antenne a livello locale, non voglio neanche chiamarli ispettori o corrispondenti, proprio antenne sensibili sul territorio. Però la vecchia generazione, nella maggior parte dei casi, è di persone che durante il giorno fanno i conti e magari la sera ogni tanto vanno al ristorante. Ora c'è una terza generazione, non riguarda solo la Puglia, riguarda tutto il Mezzogiorno. Siamo noi giovani giornalisti che abbiamo scelto il food come attività a tempo pieno. Quindi credo che se io faccio questo lavoro 12 ore al giorno e con me tutti i giovani colleghi che amano la propria terra, bene, sicuramente si moltiplicherà la presenza. Grazie Antonella, voglio dare ancora 60 secondi a Enzo Vizzari. Ho 60 secondi, Enzo. Ma condivido in toto l'intervento dell'ultima collega che ha parlato, non ho affatto usato toni scomposti, dico solo che prima di parlare bisogna documentarsi. Il numero ha citato, il sindaco ha citato delle cifre riguardanti la Michelin, io per la Michelin non parlo, certo. Parla brillantissimamente Arrighi. Sì, ha già parlato, Arrighi, sì. Abbia fatto, ribadisco che la guida dell'Espresso registra e fotografa l'esistente. Evidentemente in Puglia, se ci sono meno ristoranti recensiti rispetto ad altre regioni, è perché esistono oggettivamente meno ristoranti. Non c'è nessuna motivazione né esplicita né tantomeno recondita, ribadisco, e questo dovrebbe tagliare la testa al toro per quanto ci riguarda, per penalizzare una regione anziché un'altra. Proprio sinceramente non vedo quali potrebbero essere le motivazioni politico tra virgolette editoriali per discriminare una regione anziché un'altra. Mi sembrano davvero chiacchiere da caffè. Grazie a Enzo Vizzari. Mi spiace Arnaldo da Roma e Mario da Pescara, ma il mio tempo è finito, c'ho il Big Bang, quindi buona giornata dal vostro gastronauta.